Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. In città va solo il rider urbano. È lui sempre che ti porta la spesa. Accoglilo bene, col cuore in mano, anche quando la storia si fa tesa. Riders on the storm. Riders on the storm. Buon pomeriggio, buona domenica, buona Pasqua a tutti. Con le nostre bici ferme in garage ci sono i rulli, le sfide virtuali, le salite immaginate, ci sono i racconti, i ricordi, i sogni, ma c'è anche chi con le bici lavora, ci sono i riders, i corrieri che continuano a pedalare e a consegnare. Di loro che vogliamo parlare in questa puntata, anche per capire come è cambiato il loro lavoro durante la quarantena. Allora andiamo innanzitutto a Parma. Andrea Saccone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Andrea, tu sei titolare della Saglietta, servizio di consegna in bicicletta. Sì. Voi avete deciso di continuare questo servizio anche in questo periodo di quarantena. Tra l'altro le consegne a domicilio sono piuttosto incrementate, giusto? Sì, è cambiato completamente il target dei nostri clienti, nel senso che prima avevamo uffici, avevamo aziende e un po' di tutto. Adesso il 90% delle nostre consegne, l'80% è rappresentata da prodotti farmaceutici. Addirittura andiamo anche a ritirare la ricetta dal dottore. Voi in realtà date anche un servizio un po' tutto, cioè 360 gradi, le persone non si possono muovere, quindi se hanno bisogno di andare a prendere la ricetta oppure di anche delle incombenze che riguardano anche la vita quotidiana, volendo, no? Dando priorità ai farmaci, però anche altro. Sì, sì, noi abbiamo formato i nostri clienti che in questo periodo, data la situazione, avevamo deciso di dare la priorità o alle spese a domicilio, gente che ha bisogno di fare la spesa, che non riusciva a muoversi da casa, e i prodotti farmaceutici. Ciò non toglie che se il cliente mi chiama e si rende disponibile a un lasso di tempo di 24-48 ore, allora noi possiamo anche effettuare consegne di altro tipo, non so, i documenti che uno deve mandare in ufficio, non potendo andare in ufficio, oppure chi deve portare delle cose da una casa a un parente dall'altra. A parte i farmaci e gli alimentari, insomma, i prodotti essenziali, ci sono anche invece dei prodotti che sono particolarmente richiesti in questo periodo, consegne un po' più particolari? Guarda, nell'ultima settimana c'è stato un boom che non mi aspettavo, e sono i parrucchieri. Nel senso che non mi aspettavo una roba del genere, ma hanno cominciato a chiamare dei parrucchieri e, dicendo appunto che ci sono delle clienti che chiamano perché comincia a avere la crescita. E allora sono 10 giorni che noi giriamo la città in lungo e in largo a consegnare i prodotti per la cura dei capelli. Ma portate anche ad esempio, non so, un piatto cucinato da un parente all'altro? Abbiamo già fatto diverse consegne di piatti che vanno da, non so, lo vedi perché vai da una signora magari che ha una 60 anni, e i piatti li consegni al ventenne o al trentenne. Quindi ci sono sì ristoranti, però il piatto della mamma ha sempre il suo perché. Senti, ma è vero che è cambiato anche il rapporto con il cliente? Totalmente, nel senso che noi abbiamo deciso, nonostante abbiamo mascherine, gel e quant'altro, di mantenere una certa distanza dal cliente. Quindi noi arriviamo, non consegniamo più al piano, aspettiamo che il cliente scenda, gli lasciamo il pacco davanti alla casa, e poi quando lui ritira noi ci allontaniamo, poi se noi dobbiamo ritirare qualcosa di firmato da lui si allontana lui e ci avviciniamo noi. Quindi manteniamo sempre una distanza che va ben oltre il metro e mezzo, due metri, che dicono stiamo quasi dall'altra parte della strada. Fino a un mese fa il rapporto col cliente era magari c'è la battuta, scambiavi, facevi una chiacchierata anche, no? E invece adesso c'è gente magari che adesso ti butta o ti lancia i soldi dal balcone o fai trovare la scatola lì. Lo spirito in molte persone si mantiene, nel senso c'è quello che ti guarda, ti manda la mancia. Magari ti tira la mancia dal balcone, però te la tira, insomma, no? Sì, che ti dice magari ti prendi il caffè e io dico guarda, fa una cosa, tiella, ce lo andiamo a bere insieme il caffè quando finisce tutto, perché adesso non saprei neanche dove andarlo a prendere il caffè. Tu giri con una cargo bike, giusto? Sì, siamo io e un altro ragazzo, abbiamo 2 cargo bike. Durante l'anno ci avevamo anche delle bici da corsa da utilizzare per le consegne più veloci. Ma una cargo bike elettrica? Sì, è pedalata assistita, perché essendo solo io e un'altra persona non è che abbiamo una flotta, e quindi abbiamo bisogno di spostarci nel minor tempo possibile da una parte e dall'altra della città, anche per il futuro, anche per eventualmente valutare anche di trasportare utilizzando dei trailer che si possono attaccare dietro per dei bancali. Ogni anno salta fuori qualcosa di nuovo, quindi la pedalata assistita ti può effettivamente aiutare. È una cargo bike italiana? Sì, sì. Quando ho cominciato ho girato parecchi posti in Italia, perché quello che mi interessava era un'assistenza qui sul luogo. Quindi ho trovato questa ditta che si chiama Il Ciclo di Vigevano. La cosa positiva, appunto, che tutti i rapporti con delle persone italiane e se hai bisogno vengono. Non ho mai dovuto spedire la bici all'estero, come potrebbe capitare, capito? Senti, ma adesso invece com'è pedalare per Parma durante la quarantena? Guarda, ci sono poche macchine in giro, però purtroppo di gente in giro ce n'è, cioè non vedo la città completamente deserta, però girando in bicicletta adesso è un'altra cosa. Cos'è che ti piace di più del tuo lavoro? Del mio lavoro mi piace il rapporto con le persone, quando vai a ritirare, quando vai a consegnare, così con... è come se tu lavori in un ufficio, non so, hai 10 colleghi, qui magari come se avessi 100-120 colleghi al giorno. Ma com'è nato questo tuo lavoro? Raccontami un po' la storia. Io prima facevo controllo di gestione in una multinazionale, periodo di crisi, la multinazionale ha deciso di chiudere, io mi ero comprato una bicicletta da fornaio degli anni 30 che era veramente inguidabile perché era una roba pesantissima, cercavo delle realtà locali per consegnarli a domicilio i loro prodotti, e qui a Parma inizialmente non avevo trovato nessuno, avevo trovato una ditta invece a Milano che consegnava prodotti biologici, quindi la gente cosa faceva? Ordinava sul loro sito, a Parma non erano coperti e quindi ho detto dai proviamo, io vi cerco i clienti, e quindi venerdì alla mattina alle 4 partivo in macchina, andavo al mercato ortofrutticolo a Milano dove c'era il deposito, caricavo tutte le consegne del venerdì, poi arrivato a Parma le mettevo sulle biciclette e consegnavo tutti i prodotti in città, e l'ho fatto per un mesetto così. Poi dopo un mesetto mi sono reso conto che la bicicletta qui a Parma era veramente un mezzo, potevi fare tutto quello che volevi, nel senso che la velocità, gli spostamenti, era il mezzo ideale. Allora ho detto metto la bici al servizio di tanti altri clienti, non solo di questi qui, e ho cambiato bicicletta. E di che anni parliamo? Nel 2013, qui a Parma è stata la prima cargo bike arrivata, e quindi subito un po' di scetticismo. Per mia scelta non ho fatto distribuzione di volantini, così andavo io direttamente nelle aziende, nei negozi a presentare quello che facevo, e quindi i primi tipo ma dai cosa vuoi fare con la bicicletta, ma qui, ma là, quando piove, ma secondo te, cioè 8000 dubbi. Poi però quando cominci magari il secondo giorno che piove tu ti presenti, gli fai la consegna va bene, il terzo giorno magari piove ancora, tu gliela fai e va bene, e dopo la gente comincia un attimo a ricredersi. È difficile, però ci vuole il tempo, però piano piano vedo anche con i clienti che ho che sono sempre di più. Inizialmente c'erano quelli che magari ti sceglierono il tuo servizio solo per il lato ecologico, invece sono anche quelli che guardano anche la sostanza, quindi i conti che devono fare a fine mese. E allora abbiamo sentito, oltre ai farmaci, la tinta per i capelli, i documenti del commercialista, i piatti cucinati dalla mamma, tra i prodotti più consegnati dai corrieri, o almeno nella città di Parma, ma c'è anche chi richiede l'asparago. E allora ci spostiamo a Bassano del Grappa per raccontarvi un'altra storia, quella di una ventina di volontari in bicicletta, 10 comuni interessati per un raggio di 15 chilometri, e ne parliamo con Giovanni Todesco, presidente del Monte Grappa Bike Day, che è una manifestazione cicloturistica alla quale chiama a raccolta tantissimi volontari ogni anno e che ora ha deciso di mettersi a disposizione di questa causa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Alessandra. E allora, come mai proprio la consegna di questo prodotto, l'asparago? Beh, l'asparago, a dire il vero, è stato individuato dall'assessore alle attività produttive di Bassano, perché i produttori erano disperati, perché questo è forse il prodotto più famoso di Bassano insieme con la grappa, e purtroppo essendo così stagionale, così specifico in questo periodo, veramente poteva essere un disastro dal punto di vista economico, ma anche sociale e anche per il morale, diciamo, della città, perché l'asparago per la città di Bassano è qualcosa di veramente sentito e importante. E quindi i vostri volontari si sono offerti con le loro bici per la consegna. Abbiamo modificato le nostre biciclette appiccicandoci portapacchi e cassettine della frutta attaccate in qualche modo. Devo anche aggiungere che qui c'è una sezione della FIAB, della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. In questo momento noi abbiamo circa 2/3 dei volontari in bici nostri del Monte Grappa Bike Day e 1/3 della FIAB Bassano. Loro sono anche dotati proprio di bici cargo, perciò se ci sono ordinativi molto pesanti abbiamo anche queste bici assistite a 3 ruote che sono fatte apposta per il trasporto merci o persone in ambito urbano. abbastanza. E chi richiede adesso l'aspargo? Da dove arrivano le richieste? Ah beh, dalle famiglie, cioè tenete conto che per noi è assolutamente tradizionale. Eh sì, il problema grave è che i ristoratori oppure quelle che noi chiamiamo sagre sono tutte chiuse, perciò una grossissima quantità di prodotto sarebbe rimasta invenduta e perciò destinata al macero. E le stesse famiglie hanno difficoltà a procurarsele, perciò questa iniziativa che trasporta casa per casa il prodotto è stata presa con enorme entusiasmo anche dalla popolazione. Infatti abbiamo i telefoni intasati. Insomma, quindi anche un modo per, come dire, lenire la sofferenza della quarantena, portare l'asparago nelle case di famiglie che tra l'altro lo amano particolarmente lì dalle vostre parti. Se vogliamo è un piccolo gesto, ma è assolutamente denso di innumerevoli significati. E il nostro scopo principale è quello di sensibilizzare tutti verso, come dire, una visione per il futuro della città, del turismo, del trasporto, orientata bike friendly, e cioè orientata verso la bicicletta. La bicicletta è davvero una delle invenzioni più geniali che ci sia mai state nell'umanità e dobbiamo davvero convincerci che la bicicletta è il mezzo del futuro. E con questo messaggio noi ci fermiamo qui, riascoltateci sempre su podcast o sul sito di Radio 24, sulla nostra pagina Facebook. Ci sentiamo la prossima domenica. Ciao e buona Pasqua a tutti.